Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Il monaco di Matthew Lewis nella versione di Antonin Artaud, traduzione di Ginevra Bompiani e Giorgio Agamben. Ambrosio, nella sua cella, aveva il cuore gonfio di un sentimento inconfessato. Commosso dalla sua stessa benevolenza, aveva benedetto sul punto di lasciarli i giovani novizi ed ora assaporava da solo il suo trionfo, smisurato, e non l'annebbiava il minimo presentimento di peccato. «Chi altro, all'infuori di me», si diceva, «avrebbe saputo restare puro in mezzo ai turbamenti dell'adolescenza, agli adescamenti del mondo e alle esigenze di un temperamento sanguigno? Perché se io non vado fra la gente, se me ne sto chiuso come un vero esule dal tempo, tutti i giorni però il mondo urla il mio nome, sfila davanti al mio sguardo. Le più incantevoli donne di Madrid fan ressa al mio confessionale. Sono mai stato sul punto di cedere. Una sola di queste donne stupende mi ha mai colpito altrimenti che per il disgusto che la sua debolezza mi ispirava. La mia carne, le mie viscere hanno forse tremato al contatto di una sola di queste bellezze. No! Nessuna donna ha mai potuto trovare la strada del mio cuore. E se nessuna l'ha trovata, è perché esso appartiene a voi, mio signore, a voi solo», mormorò, segnandosi con un fervore troppo brusco e forzato per essere sincero. «E il mio cuore è invulnerabile. Ma se fra queste donne ne apparisse una che le eclissasse tutte, che rassomigliasse a voi, bella Madonna, sovrumana e adorabile come voi», riprese sollevando lo sguardo verso un'immagine della Vergine che era appesa alla parete proprio sopra la sua testa, «riuscirei allora a resisterle. Come potrei sfuggire a una donna il cui viso avesse questa stessa grazia? Come scamperei alla tentazione?» A questo punto qualcuno bussò alla porta. Il monaco, in preda a una specie di ebbrezza mentale, drizzò la testa, gli occhi sfavillanti. «Chi è là?» gridò dopo un attimo. «Il giovane Rosario», rispose una voce piena di grazia. «Entra pure, figliolo». La porta si spalancò senza altra esitazione e Rosario entrò. Era un giovane novizio sul punto di pronunciare i voti. Tutto nel suo aspetto disponeva alla simpatia e il riserbo del suo contegno ne aumentava ancora il fascino. Il modo di vestire, la tetraggine, la nausea di ogni compagnia, l'umiltà davanti agli altri novizi, il rigore verso se stesso, facevano della sua vita e della sua presenza un oggetto incessante di curiosità e di mistero. Portava sempre un ampio cappuccio che gli scendeva fin sugli occhi e nessuno, nemmeno Ambrosio, poteva vantarsi di conoscere interamente la sua faccia. Nessuno sapeva da dove veniva e quanto a lui parlava della sua origine ancora meno, se possibile, del resto. E nessuno aveva mai insistito troppo per farsela rivelare. Ambrosio era la sola persona per la quale il giovane novizio facesse eccezione alla regola di solitudine che si era imposta. Accanto a lui il cuore gli si apriva e la sua ipocondria sembrava dissiparsi, e cercava con mille premure e accortezze di conciliarsi il suo favore. Dal canto suo, Ambrosio aveva per il novizio la più grande simpatia, lo istruiva, perfezionava la sua cultura e il solo fatto di poter ascoltare la voce soave di quel bel ragazzo lo compensava largamente dei suoi sforzi. Lo amava con tutto l'affetto di un padre e non riusciva a frenare un inconfessato desiderio di contemplare i suoi incantevoli lineamenti. Ma una regola di astinenza che bandiva perfino la più semplice curiosità gli vietava di manifestare in qualsiasi modo la sua voglia. Anche su questo punto Ambrosio aveva interrogato la sua coscienza, preoccupato dal piacere esagerato che sembrava dargli la contemplazione di un volto maschile. Ma dal momento che nessun più complicato sentimento vi si mischiava, Loyola poteva ancora una volta ringuainare i suoi esercizi e niente gli impediva di accarezzare come voleva l'ambigua immagine di Rosario. «Questa sera non vi ho veduto in chiesa, Rosario. Eppure c'ero, padre. Come avrei potuto privarmi di un'occasione di assistere al vostro trionfo? Ahimè, Rosario, non è a me che spetta questo trionfo, ma al santo che parla attraverso la mia bocca. Bisogna lodare soltanto lui. Dunque, il mio sermone vi è piaciuto? Se mi è piaciuto, ma avete superato voi stesso. Soltanto un'altra volta ho sentito un'eloquenza come questa». A questo punto il novizio si lasciò sfuggire un sospiro. «Una sola volta», lo aizzò il priore. «Sì, il giorno in cui il nostro vecchio superiore si ammalò all'improvviso e voi lo sostituiste. Ah, sì, ora ricordo. Ma sono passati più di 2 anni. Come potevate essere presente? A quell'epoca, Rosario, non vi conoscevo ancora». «Ma io vi conoscevo. E fosse piaciuto al cielo che le cose fossero rimaste a quel punto, quante pene mi sarebbero state risparmiate, quanti dolori di ogni genere. La mia vita non sarebbe divenuta questa trama instancabile di rimorsi, di angosce, di crepacuori». «Delle angosce? Alla vostra età? Rosario!» «Sì, padre mio. Ho rinunciato di proposito a tutto, ho sacrificato il mondo con tutte le sue gioie e le sue sorprese e rinuncerei a più ancora se fosse necessario purché voi mi foste conservato». «Io, ragazzo mio, non vi capisco, avete più del mio affetto, vi amo, come la vita che il Creatore mi ha dato e non mi pare poi di essere proprio in punto di morte, calmatevi, vi prego». «Sì. Ho bisogno della vostra amicizia, del vostro affetto», urlò quasi Rosario, buttandosi ai suoi ginocchi e prendendogli le mani, che portò poi freneticamente alle labbra e coprì di lacrime brucianti e di baci. «Senza non posso vivere. Giuratemi, vi supplico, giuratemi di conservarmeli». Pronunziate queste parole, Rosario si alzò e fuggì precipitosamente, lasciando il monaco di sasso, al colmo dell'imbarazzo e dello stupore. Poco dopo Ambrosio scese nella cappella per ricevere la confessione delle suore del monastero di Santa Chiara. L'abbadessa fu la prima a presentarsi. Le suore, nel loro scandito andirivieni, parevano una colonna di formiche intonacate, e nulla di notevole era ancora avvenuto quando una religiosa che si distingueva dalle altre per la bellezza dei lineamenti e la fierezza del portamento lasciò cadere, uscendo, una busta. Ambrosio la richiamò e, supponendo che si trattasse della lettera di un familiare, stava per restituirla quando lo sguardo gli cadde su alcune parole del testo. «Ferma, ragazza mia», disse con voce severa. «Debbo leggere questa lettera». «Allora, per me è finita», singhiozzò la monaca, disperata. Il suo volto aveva perso di colpo ogni colore, tremava per tutto il corpo e sembrava sul punto di piombare a terra da un momento all'altro. Il monaco lesse queste righe. «Domani a mezzanotte sarò alla porta del giardino. Tutto è pronto e fra poche ore riavrete la vostra libertà. Vi scongiuro che nessuno scrupolo tardivo vi trattenga. Non avete altro modo di salvare voi stessa e l'innocente creatura che portate in seno. Mi avete giurato la vostra fedeltà prima ancora di prometterla alla Chiesa. Sapete quanto la vendetta dell'Inquisizione sia tenace. Tra non molto vi sarà impossibile nascondere il vostro stato. Addio. Domani a mezzanotte sarò alla porta segreta, aspettandovi con tutta l'anima. Finita la lettera, il monaco lanciò sull'imprudente ragazza un'occhiata carica di riprovazione. «La badessa vedrà questa lettera all'istante», tuonò, gettandosi verso l'uscita. «Fermatevi, padre, fermatevi! Ascoltatemi, non accusatemi di impurità e non pensate che mi sia lasciata travolgere dall'ardore dei sensi. Raimondo era padrone del mio cuore molto prima che io prendessi il velo. Aveva saputo ispirarmi una passione pura e irreprensibile ed era sul punto di diventare mio legittimo sposo. Delle terribili circostanze e il tradimento di una mia parente sono state la causa della nostra separazione. E soltanto quando l'ho creduto perduto per sempre mi sono gettata per la disperazione in convento. Il caso ci ha fatto rincontrare e non ho potuto negarmi l'amara gioia di mescolare un'ultima volta le mie lacrime alle sue. Ci siamo dati appuntamento nei giardini di Santa Chiara ed è bastato un attimo di abbandono per farmi trasgredire il mio voto di castità. Presto sarò madre. Degno Ambrosio, non negatemi la vostra pietà. La vostra audacia mi sbalordisce. Io nascondere il vostro delitto, proprio io, che avete gabbato con una falsa confessione? No, figlia mia, no. Voglio rendervi invece un servizio più essenziale. Vi riscatterò dalla perdizione vostro malgrado. A poco la penitenza e le mortificazioni laveranno la vostra colpa e il rigore vi rimetterà con la forza nella via della perfezione morale che non avreste mai dovuto abbandonare. Dov'è la superiora? Madre Sant'Agata, dove siete? Disperata, Agnese stramazzò a terra, piangendo e percuotendosi il petto, come se fosse impazzita. Le suore osservavano sbigottite la scena. Il monaco, porgendo la lettera alla badessa, la informò del modo in cui gli era capitata fra le mani e aggiunse che si rimetteva a lei per la decisione del castigo. Alla lettura dello scritto, il volto della superiora si fece di brace. «Al convento», sentenziò con un filo di voce, puntando il dito contro la sventurata. Due delle suore più anziane, avvicinatesi ad Agnese, la misero a forza in piedi e si prepararono a trascinarla fuori dalla cappella. «Come? È tutto finito? Ogni speranza perduta? Per sempre?» balbettò Agnese inebetita. «Mi conducete al supplizio? Raimondo, dove sei? Salvami! Ascolta! Salvami!» Poi, volgendo sul priore due occhi di fuoco, «Statemi a sentire! Voi!» proseguì. «Uomo di cuore duro, statemi a sentire! Avreste potuto salvarmi, rendermi alla felicità e alla vita una sola parola, e sarei tornata pura, irreprensibile e virtuosa, e non avete voluto pronunciarla? Avete distrutto la mia vita, siete il mio assassino! Ricada su di voi il sangue della mia morte e di quella del mio bambino!» Dette queste parole, piombò a terra senza conoscenza. Le monache che le stavano accanto la risollevarono. Fu subito trascinato fuori dalla cappella e le suore la seguirono col batticuore. Il monaco non aveva potuto ascoltare senza tremare la sua violenta invettiva. Una segreta angoscia lo avvertì che un giorno la sua mancanza di carità gli sarebbe stata rinfacciata. Trattenne perciò la superiora e si azzardò a intercedere in favore della peccatrice. «La violenza della sua disperazione», balbettò. «Sembra almeno provare che il vizio non le è familiare, forse trattandola con un po' meno durezza, mitigando fino a un certo punto la punizione prevista». «Mitigarla, padre!» sbuffò la terribile badessa. Non sperate che lo faccia. Anzi, se le regole del nostro ordine sono da tempo cadute in disuso, le farò rivivere proprio per un delitto così odioso e Agnese sarà la prima ad accorgersene. Addio, padre. E volgendogli le spalle, si slanciò verso l'uscita. Fu nel giardino che il monaco, scampato al subbuglio della cappella, venne a cercare sollievo alla sua irrequietezza. La pace dell'ora agì potentemente sui suoi nervi e il monaco si sentì penetrato da un oscuro languore. Aveva appena raggiunto l'eremo e stava per entrarvi quando riconobbe Rosario. Per qualche istante stette a osservarlo in silenzio, senza muoversi. Dopo un secondo il giovane alzò gli occhi e fissò cupamente una parete. «Come sento», diceva, «tutta la felicità della tua condizione e tutta la miseria della mia. Sarei felice se potessi pensarla come te, se come te potessi guardare al mondo con nausea e scavarmi per sempre una bara di solitudine, oh Signore. Che benedizione sarebbe per me la misantropia!» «Che strana idea, Rosario», fece il monaco. «Voi qui, reverendo padre!» esclamò il novizio e, alzandosi tutto confuso, si affrettò a calarsi il cappuccio sul viso. Ambrosio si mise a sedere e costrinse il novizio a mettersi accanto a lui. «Come potete», gli disse, «abbandonarvi senza lottare a pensieri così miserevoli? La misantropia, credete a me, non è un sentimento tanto comodo come può sembrarvi così desiderabile. Davvero mi stupite, Rosario. Sono proprio questi i vostri sentimenti. Riflettete un istante. Dite di odiare il mondo e tuttavia stimate nel suo giusto valore, che non è poco, questa società di eletti in mezzo alla quale vivete.» «Vorrei non avervi mai visto», gridò inaspettatamente il giovane novizio, e nello stesso istante strinse febbrilmente la mano di Ambrosio. «Fosse piaciuto al cielo che prima di incontrarvi una saetta m'avesse bruciato gli occhi, o che almeno avessi potuto dimenticare che un giorno mi è stato dato di incontrarvi.» A questo punto impallidì e fuggì. Ambrosio lo seguì un istante con lo sguardo, cercando di indovinare le ragioni del suo comportamento. Dopo qualche minuto il novizio tornò indietro e si sedette ancora sull'erba. Appoggiò la guancia su una mano e con l'altra asciugò le lacrime che gli gocciolavano dagli occhi a intervalli. Tra i due si fece un profondo silenzio. Davanti alla porta dell'eremo un usignolo si era posato su un arancio e riempiva l'aria di accordi melodiosi. Rosario drizzò la testa e parve intento ad ascoltare. «Così, sì, proprio così», fiatò in un profondo sospiro. «Durante l'ultimo mese della sua sfortunata esistenza, mia sorella si consolava ascoltando l'usignolo. Povera Matilde, ora dorme nella tomba e il suo cuore schiantato non palpiterà più per amore.» «Avevate una sorella?» «Ahimè, sì, l'avevo. E ora non l'ho più. La sua giovinezza non ha resistito alla violenza delle sue sventure.» «Ma di che sventure si trattava?» «Certo non tali da suscitare la vostra pietà. Non saprete mai nulla dei fatali sentimenti di cui il suo cuore fu preda. Un amore sfortunato, una passione per un uomo dotato di tutte le qualità, per un dio dovrei dire, ha avvelenato la sua esistenza. Nobiltà, onore, fama, talento, virtù tali da infiammare anche il cuore più insensibile. Mia sorella lo vide e osò amarlo, pur senza mai nutrire nessuna speranza.» «Ma se il suo amore era così ben riposto, perché non poteva sperare di realizzare i suoi desideri?» «Prima di conoscerla, Giuliano aveva già giurato amore a una fidanzata bella e tutta celeste. Mia sorella non cessò di amarlo e per amor suo adorava anche la sua fidanzata. Un giorno riuscì a fuggire dalla casa di nostro padre vestita di umili panni. Si presentò come domestica alla sposa del suo idolo e fu accettata. Da quel momento lo vide ogni istante. Si sforzò di guadagnarsi la sua simpatia e ci riuscì. Le sue premure attrassero l'attenzione di Giuliano. I cuori virtuosi sono sempre riconoscenti ed egli diede a Matilde una posizione particolare fra le sue compagne. Ma il suo amore era troppo violento per restare nascosto e un giorno essa si tradì. In un momento di abbandono confessò la sua passione, che cosa ottenne in cambio? Ciecamente innamorato di sua moglie. E pensando che uno sguardo di pietà accordato a un'altra donna avrebbe significato un torto fatto a lei, Giuliano scacciò Matilde e le proibì di comparire ancora davanti ai suoi occhi. Tanta durezza spezzò il suo povero cuore. Tornò da mio padre e pochi mesi dopo la portammo al cimitero. Povera ragazza, il destino fu crudele con lei e Giuliano troppo severo. «Lo pensate veramente, padre?» saltò su con furia il novizio. «Davvero pensate che fu troppo severo?» «Certamente. E la vostra infelice sorella ha tutta la mia simpatia.» «Se Matilde ha la vostra simpatia, allora, padre, accordatela anche a me. La merito ancora più di lei perché soffro atrocemente.» Mia sorella aveva un amico che aveva pietà dei suoi sentimenti e non le rimproverava la sua impotenza a dominarli. Ma io non ho nessun amico. Nessuno. Il monaco si commosse, prese la mano di Rosario e la strinse con dolcezza. Nessun amico, voi dite? E io che sono, allora? Forse la dignità del mio abito vi intimidisce. Se il mio aiuto e la mia compassione possono alleviare la vostra sventura... La vostra compassione, ma la vostra soltanto. Padre, come sono impaziente di rivelarvi il segreto che mi mozza il fiato, ma ho paura. Ho paura. Paura, figliolo. E di che? Che mi disprezziate per la mia debolezza, che la mia confessione non mi perda definitivamente ai vostri occhi. Che posso dirvi? Che altra assicurazione vi posso dare? Disprezzarvi io, Rosario? Ahimè, ormai non mi sarebbe più possibile. Giurate che qualunque sia la natura e la gravità del mio segreto, in nessun caso mi obbligherete a lasciare il convento prima che il mio noviziato sia finito. Ve lo giuro. Sul mio abito sacro, sulla realtà stessa della mia fede e come io manterrò la mia promessa, così Cristo possa mantenere la sua al genere umano. E ora spiegatemi subito di che si tratta e contate su tutta la mia indulgenza. Non è soltanto della vostra indulgenza che ho bisogno, ma anche della vostra compassione. È attraverso le vostre debolezze che dovrete giudicarmi. Proseguì gettandosi disperato ai suoi piedi e portando con foga alle labbra le sue mani, e l'agitazione gli impedì per un attimo di continuare. «Padre!» disse in un soffio. «Padre, io sono una donna.» Il monaco sobbalzò come se avesse ricevuto una fucilata. A terra, rannicchiato, il falso rosario non era che una massa informe e singhiozzante. Lo stupore e l'angoscia li irrigidirono entrambi nella stessa posizione, come al tocco della bacchetta di un mago. Poi il monaco rientrò in sé e fuggì verso il convento. Ma già la donna lo braccava e gli sbarrava il passo. «Non mi sfuggite!» strillò avvinghiandogli convulsamente le ginocchia. «Non abbandonatemi senza una parola alla mia disperazione. State almeno a sentire la storia della mia pazzia, la storia di mia sorella. È la mia. Io sono Matilde e siete voi, colui che essa ama.